Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ben ritrovati a Salva Danaio. Noi questa settimana la riprendiamo esattamente da dove l'abbiamo lasciata. Non abbassiamo la guardia sui mercati, continuiamo a seguire l'andamento delle borse, oltre che dei prezzi e dei rendimenti delle obbligazioni, con un focus particolarmente attento, lo sapete bene da qualche settimana, sui titoli delle emissioni, sui titoli appunto delle emissioni governative. Il grande movimento sui mercati, che peraltro riferendoci sostanzialmente al settore azionario, hanno azzerato i guadagni dell'anno e hanno cominciato ad erodere anche quelli messi a segno nel 2009, anno del recupero dei minimi toccati nel marzo di un anno fa. E appunto questo grande movimento sui mercati sta provocando un atteggiamento che si era già ben notato nel culmine della crisi finanziaria nell'autunno del 2008, cioè la ricerca di protezione del proprio risparmio e dei propri investimenti. E certo, insomma, ma quale può essere considerato il porto sicuro del proprio denaro? Questa è una domanda che si staranno facendo in molti, soprattutto i risparmiatori più prudenti. Allora, qualche risposta oggi la fornisce il Sole 24 Ore, che pubblica un bel dossier intitolato significativamente "Guida gli investimenti sicuri", il focus è su obbligazioni emesse da grandi emittenti, su conti di deposito, su strumenti postali, su titoli di Stato in generale, sulle polizze vita. Allora noi tra l'altro vi spiegheremo adesso come poter interagire anche con questa guida, perché è possibile farlo attraverso il sito del Sole 24 Ore, che vi ricordo da oggi è anche online con una nuova veste, una veste grafica completamente rinnovata. Vi ricorderò adesso le modalità per interagire appunto anche con questa sezione del sito che si dedica agli investimenti sicuri, ma naturalmente anche noi di Salva Danaio non potevamo non rubare questo argomento e quindi darvi anche, se possibile, qualche guida per proteggere i vostri investimenti in questo momento e soprattutto come orientarsi anche nella scelta del consulente giusto. Insomma, le domande che molti di voi si fanno in questo momento sono tante. Allora, stamattina abbiamo interpellato due esperti del settore, saluto e ringrazio perché entrambi li ho voluti da un bel po' di tempo a questa trasmissione, quindi sono contenta di averli messi insieme. Fabrizio Meo, responsabile per l'Italia di ING Investment Management, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Adesso le devo avvicinare un po' al microfono, un po' troppo lontano. E ringrazio anche di essere finalmente venuto a Salva Danaio anche Paolo Federici, responsabile della distribuzione in Italia di Fidelity International. Benvenuto. Buongiorno Deborah e buongiorno agli ascoltatori. Allora, ovviamente gli ospiti sono con me a Salva Danaio, ma naturalmente sono a disposizione di tutti gli ascoltatori che vorranno interagire con noi all'800240024, oppure che vorranno scriverci al 349-238-6666. Focus sulla sicurezza dei nostri risparmi, ma raccontateci un po' voi come la intendete e come vi state orientando in questo momento. Raccontateci la vostra esperienza, se volete anche il vostro approccio, non tanto con i prodotti di risparmio e di investimento, anche con il vostro consulente, perché come sapete ci piace sempre confrontarci con le esperienze di tutti. Prima di cominciare la nostra chiacchierata, direi che come sempre dobbiamo dare un'occhiata invece a quello che accade in borsa oggi, perché la giornata ci appare già, ma siamo abituati ormai di nuovo da qualche settimana a questi andamenti, piuttosto movimentata, perché era partita bene dopo il rialzo abbastanza sostenuto di Wall Street di venerdì scorso, e poi di nuovo cambio di direzione, e ancora la situazione greca continua a dettare legge, ad alimentare l'incertezza generale. Allora, abbiamo Parigi in ribasso di mezzo punto, Francoforte meno 1,34, Londra perde mezzo punto e il fanalino di coda in assoluto è Milano, che sta perdendo il 2,83% sul FTSE MIB. Come ho già però precisato nel giornale radio, non dobbiamo spaventare gli ascoltatori, perché abbiamo anche una connotazione di carattere tecnico di questo ribasso, perché oggi ci sono ben 27 società, proprio i pesi massimi del principale paniere, che staccano il dividendo, la cedola, e di conseguenza questo si fa sentire su tutto il listino. Vale per circa il 2% questo stacco, per cui diciamo che depurato da questo effetto Milano perderebbe circa lo 0,8%, quindi diciamo senza infamia e senza lode si mette insieme alle altre piazze europee, in linea con le altre piazze europee. Abbiamo però l'euro che riprende a ripreoccuparci, perché stamattina era partito a oltre la soglia di 1,25 sul dollaro, poi ha ingranato la marcia indietro, adesso si è portato a 1,23,82, quindi si mantiene una certa volatilità sul mercato dei cambi. Anche questo magari è un tema da affrontare questa mattina, perché anche se si scelgono degli investimenti che magari vogliono essere diversificati al massimo e guardare un po' tutti i mercati internazionali, e beh, in questo momento anche la massima diversificazione è proprio un po' disturbata dal cambio, che è in forte oscillazione su tutti quanti i versanti geografici. Allora io direi che questo è il quadro di borsa in questo momento, possiamo però partire con la nostra trasmissione e oggi andiamo a caccia di investimenti sicuri. Nel recente clima di instabilità dei mercati, con la speculazione che regna sovrana e le preoccupazioni sulla situazione debitoria interna all'Unione Europea, è estremamente difficile indirizzare le proprie scelte di investimento e tutelare i propri risparmi. Chi pensava che le obbligazioni fossero un porto sicuro è stato in parte costretto a ricredersi davanti alla volatilità che stanno dimostrando e a rivedere dunque la composizione del proprio portafoglio. Sia i titoli di Stato che le obbligazioni societarie, infatti, in questi giorni hanno subito forti oscillazioni di prezzo e di rendimento. Le altalene più pericolose sono toccate ai prestiti bancari, finiti di nuovo nel centro del mirino, e ai debiti pubblici dei paesi più deboli. Ma quali sono gli impieghi più sicuri per chi investe nuovo denaro? La sicurezza in Europa è oggi rappresentata dal Bund tedesco e, in secondo luogo, dalla Francia e dalla Finlandia. I titoli di questi paesi hanno il giudizio di affidabilità più solido e quindi i prezzi più elevati e i rendimenti più bassi. Ma va bene puntare anche sull'Italia, magari con obbligazioni di brevissima durata. A costo di avere rendimenti risicati, i risparmiatori italiani preferiscono poi parcheggiare il proprio denaro su strumenti come i conti di deposito, che a fronte di bassi rendimenti garantiscono una maggiore sicurezza. Ma insomma, le opportunità di mercato sono anche molte altre. Questa mattina, come vi ribadisco, c'è una panoramica piuttosto articolata su questo dossier del Sole 24 Ore, guida agli investimenti sicuri. Prima di cominciare la mia chiacchierata con i nostri ospiti, vi ricordo come è possibile anche interagire con lo speciale online di questo dossier. E in sostanza, se volete, collegandovi al sito internet www.ilsole24ore.com/, cioè la barra di traverso investimenti, i lettori potranno inviare dei quesiti sui temi trattati nella guida, scegliendo in diverse aree di intervento, dai conti di deposito alle obbligazioni indicizzate, alle obbligazioni bancarie, ai titoli di Stato, e gli esperti delle Sole, che sono tra l'altro anche ricorrenti a Salvadanaio, Angelo Drusiani, Giuseppe Romano e Nicola Zanella, risponderanno appunto alle vostre domande per iscritto, naturalmente. Fin da oggi i lettori possono inviare i loro quesiti e le prime risposte, peraltro le risposte saranno anche pubblicate domani sul Sole 24 Ore. E intanto però tutti coloro che non hanno tempo di scrivere sul sito possono invece chiamare a Salvadanaio all'800 24 00 24. Allora, vedo già qualcuno pronto ad intervenire, ma io vorrei cominciare la mia chiacchierata intanto con Paolo Federici di Fidelity International, perché proprio di recente questo grande gruppo internazionale specializzato negli investimenti ha organizzato una ricerca a livello europeo, Federici, proprio per monitorare un po' il sentiment fra gli investitori. Ne avete interpellati ben 9.000 fra 11 paesi. Qual è stato il risultato? Viene confermata questa ricerca di sicurezza? Assolutamente sì, ed è interessante vedere che non è un problema solo italiano. Noi a volte pensiamo, come dire, di essere un po' particolari nell'ambito dell'Europa, devo dire che su questi temi invece c'è una forte comunanza di interessi. Ci sono almeno due aspetti che i clienti intendono come sicurezza. Sicuramente c'è un elemento di prodotto, quindi che tipo di prodotto per me incarna il concetto di sicurezza, e qui si è visto che questo può essere affrontato da diversi punti di vista. Per prima di tutto c'è una sicurezza di rendimento, quindi ci può essere un tema di rendimento garantito, ci può essere un tema di possibilità di liquidarlo questo prodotto, perché a volte il problema è riavere i propri soldi. Ci può essere un tema di non perdere soldi a scadenza. Purtroppo abbiamo visto anche in Italia quello che può essere successo con prodotti apparentemente sicuri, come potevano essere per esempio i Tango Bond e così via. Quindi abbiamo provato un po' a chiedere cosa intendessero per sicurezza ed è emerso che il 74% dei clienti in Italia vorrebbe un rendimento garantito e in occasione magari anche modesto, magari anche modesto. Poi sul concetto di modesto anche qui si aprono dei mondi, perché chi è memore ancora dei rendimenti che avevano i titoli di Stato in fase in cui l'inflazione era molto più alta magari ritiene modesto un 4-5%, e oggi avere un 4-5% è tutt'altro che semplice. C'è un tema di possibilità di perdita molto limitata, che per oltre 7 intervistati su 10 è molto importante, e c'è un tema anche di velocità di rientro del capitale, che è effettivamente abbiamo imparato. Cosa vuol dire velocità di rientro? La facilità con cui io riesco a riavere i miei soldi, molto molto semplicemente. Qui ci sono strumenti che più rapidamente li possono riconsegnare, altri strumenti che magari sono meno liquidi oppure offrono queste garanzie, queste protezioni appunto soltanto a scadenza. Quindi se io li voglio prima, magari sì, li posso riavere, però non con la protezione, quindi evidentemente io cliente ne soffrirò. L'altro aspetto grande sicurezza è la sicurezza in termini di fiducia verso il proprio consulente, cioè un soggetto del quale io mi devo fidare, mi verrebbe da dire soprattutto nelle fasi di crisi, perché poi quando le cose vanno bene si è più sereni, e lì abbiamo approfondito quali elementi potessero, come dire, portare a questa fiducia verso il consulente. Non ci ridica, approfondiamo questo aspetto più avanti, esatto, perché è un tema molto interessante, anche perché è chiaro, questa è una fase di mercato molto particolare, è stata una crisi quella che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando per certi versi assolutamente inedita. Quando il mercato perde è molto difficile che noi riusciamo, come dire, ad avere un atteggiamento freddo di fronte a quello che accade, ed è chiaro che magari tutte le perdite che il nostro capitale subisce le attribuiamo anche al consulente, non tanto al prodotto di investimento che è stato scelto, perché inevitabilmente vengono anche identificati, no? I due. E però magari questo è un tema sul quale torneremo. Però volevo andare anche a Fabrizio Meo, responsabile per l'Italia di ING Investment Management, perché questa crisi greca ha scompaginato le convinzioni di molti. Finché si trattava di una crisi di banche, finché gli stati sono intervenuti naturalmente a ricapitalizzare i colossi del credito, andava tutto bene. Nel momento in cui, anche preannunciandola in qualche maniera, è arrivata la crisi degli stati sovrani, e beh, certo che le nostre certezze sono veramente andate a farsi benedire, le paure sono inevitabilmente aumentate. È dura adesso, come dire, pilotare anche gli investitori in un contesto di sicurezza, di protezione massima dei propri investimenti, insomma anche le politiche di offerta delle case di investimento, come stanno cambiando? Cosa state facendo per esempio a casa vostra? Ma guardi, noi di fatto rappresentiamo la struttura che si occupa degli investimenti, quindi dei fondi di investimento che vengono proposti sul mercato italiano e sul mercato internazionale. E c'è da dire che questa ampia gamma di prodotti è un po' il frutto di tante capacità, innovazioni, esperienze che passano attraverso dei cicli economici tanto positivi quanto negativi. Quindi come gruppo di investimento siamo in grado di poter offrire dei prodotti che riescono ad affrontare le più diversificate esigenze della clientela, dalla protezione del capitale fino a delle opportunità di maggiore rendimento. Ma la richiesta come di cambia... protezione si è intensificata, è aumentata. Questo è un bellissimo tema effettivamente, cioè la gente adesso ha voglia di investire e di rientrare, come diceva il mio collega, del capitale investito, di ottenere un certo rendimento che protegga quantomeno dal potere d'acquisto, e di avere quel rendimento in più senza correre e incappare in rischi legati alle incertezze dei mercati. Noi pragmaticamente come abbiamo cercato di rispondere a questa situazione? Abbiamo portato in autorizzazione sul mercato italiano diversi fondi di investimento che puntano soprattutto al debito dei paesi emergenti. Paesi emergenti appartenenti a tutto il mondo, nei quali crediamo già da un po' di tempo, e devo dire hai ragione, che ci siano delle buone combinate opportunità, tanto di protezione, vista come diversificazione del rischio su più paesi, quanto nella capacità di generare degli extra rendimenti. Allora, primo effetto paradossale di questa crisi, il mercato emergente diventa oggi quasi il porto sicuro, quindi l'esempio, come dire, massimo della protezione quasi garantita del proprio investimento. Seconda invece asset consigliata, Meo? Ma allora, corretto, andiamo sui paesi emergenti perché paradossalmente hanno un surplus economico, hanno dei deficit in alcune situazioni che sono in forte ripresa, e quindi offrono delle buone opportunità. Secondo porto è soprattutto sull'approccio dei fondi obbligazionari tradizionali, quindi che cosa stiamo facendo laddove abbiamo un'esposizione al debito dei paesi dell'Unione Europea. Beh, l'incertezza regna sovrana, come dicevi tu in precedenza, e quindi preferiamo dei titoli che hanno un merito creditizio più elevato. Andiamo verso la Germania, la Francia, la Finlandia e altri paesi che effettivamente non hanno rischi di fallimento così elevati. C'è una situazione incerta e soprattutto imprevedibile da parte di tutto il mercato. Il piano di salvataggio dell'Unione Europea non è stato sufficiente a calmierare le paure in brevissimo tempo. Ultimo aspetto, non tanto dove investire ma come investire. Beh, cerchiamo di tenere distante l'emotività, quindi lontano dalla scelta dei picchi elevati e minimi, e quindi l'effetto che noi definiamo così in gergo come market timing, anche perché la situazione è veramente molto complicata da poter identificare. Quindi suggeriamo ai nostri investitori soprattutto l'utilizzo dei PAC, che sono delle metodologie di investimento progressive, piani di accumulo regolari fatti mensilmente, che tendono un po' distante e riducono l'effetto di incertezza legato a questi alti e bassi. No, tra l'altro, a proposito del ovviamente acquisto sulla debolezza e poi vendita sui picchi massimi del valore, per esempio, delle azioni, ci sono molte considerazioni da parte dei nostri ascoltatori. C'è chi ha azzeccato il periodo giusto di acquisto sul mercato azionario, quello dei minimi di un anno fa. C'è Marco da Pavia che ci sta raccontando la sua piuttosto articolata esperienza, e però Federici, a saperlo, quando tocchiamo il minimo, certo, un anno fa era abbastanza prevedibile, però nessuno avrebbe pensato che nel giro di un anno quasi ci saremmo tornati su quei livelli perché scoppiava la crisi degli stati sovrani. C'è un'altra considerazione di un altro ascoltatore che so che le sarebbe piaciuto commentare. Quando si perdono soldi anche nei fondi monetari, dice un ascoltatore, siamo alla frutta. Federici, è vero. Quando sulla turbolenza, sul lotto volante finiscono i titoli di Stato. Certo, e qui bisogna fare un distinguo. Sotto il concetto di fondi monetari a volte gli investitori mettono cose abbastanza diverse tra loro. I fondi monetari in senso stretto sono quelli che hanno titoli di durata estremamente bassa, quasi liquidi appunto, in questa fase, ahimè, qui bisogna essere onesti, sui monetari c'è ben poco da fare, perché chiaramente i rendimenti che si possono ottenere, per quanto migliori per un investitore istituzionale di quello che avrebbe il privato, sono comunque molto molto bassi. Si sa dove sono i tassi in questa fase. È diverso cominciare a ragionare sui fondi invece cosiddetti a breve. Questi fondi hanno quelli cosiddetti short duration o short term, eccetera. Questi fondi hanno qualche obbligazione sotto che è un pochino più lunga di questo, sempre di solito inferiori ai 2 anni, in questo senso, ma non a zero di durata. E questi invece possono dare un rendimento certamente più interessante. È naturale che in periodi come questi i fondi monetari puri siano il rifugio per chi magari aveva un investimento in qualche altra asset class, quindi magari poteva essere in azionario o in obbligazionario più lungo, e per qualche ragione magari ha bisogno di fronteggiare una spesa, vuole trasferirsi in una forma più liquida, perché poi però quei soldi li vuole utilizzare diversamente. Se invece il concetto è essere investiti, io personalmente sconsiglio i fondi monetari puri, perché in questa fase, con i tassi a livello attuale, e non ci sono forti previsioni di rialzo in questo senso, non si andrebbe lontano. Però un fondo di breve durata, tanto per dare un'idea di un prodotto che abbiamo noi, in un anno ha saputo ridare sulla euro, quindi senza andare a pensare chissà che ritorni dal cambio, oltre il 10%. Quindi sono numeri che la gran parte degli investitori trovano molto molto interessanti, e questo vuol dire che possono fare molto bene. L'altra cosa che è interessante è che questi prodotti hanno dimostrato una resistenza alle fasi della crisi molto importante, quindi la prima parola è, come si diceva appunto, diversificazione. Nel periodo 20 aprile 20 maggio, che è più o meno quello che si associa alla fase più virulenta, qui oramai quasi non ci si meraviglia più di questo meno 2% in un giorno, perché ahimè se ne è visto più di qualcuno. Abbiamo avuto delle giornate con più 10, meno 10, ottobre del 2008, esatto. Non sapevamo più che cosa raccontare. Ma anche il 10 maggio con più 10%, infatti. Sicuramente quello, esatto, da un lato rassicurante, l'altro un po' meno. Morale, in un mese prodotti come questi hanno fatto quasi l'1% in questo mese. Quindi il concetto è diversificare, però non aver paura di prendere un minimo di obbligazioni con una certa durata. il fai da te, come si diceva correttamente prima, è però una cosa complicata e pericolosa, perché la mia possibilità di liquidare la singola obbligazione e avere qualcosa di positivo è qualcosa. Un fondo di solito di obbligazione ne tiene centinaia, e quindi la liquidità, perché si diceva che poi la sicurezza è sicurezza anche di riavere in fretta i miei soldi senza perderci troppo, è molto molto importante. Titoli tenuti in portafoglio singolarmente a durate molto lunghe, che possono avere un valore anche molto diverso da quello a cui sono state acquistate nel frattempo, nella parte obbligazionaria potrebbero non essere l'eccezione. Allora, io tra l'altro, avendo sollecitato gli ascoltatori a scriverci che tipo di scelte prudenti alla ricerca del porto sicuro stanno facendo, mi stanno arrivando degli sms che non ho mai visto in vita mia, lunghissimi, articolatissimi, e quindi adesso vorrei anche tentare di leggerne qualcuno, vediamo se ci riusciamo, ma sentirei anche un paio di ascoltatori, poi continuiamo con la nostra chiacchierata, ma i nostri amici che ci seguono da casa, che ci chiamano all'800240024, si sono sbizzarriti con i quesiti non più assurdi, assolutamente legittimi e pertinenti al tema di questa mattina, ma ognuno davvero, soffermandoci sul concetto della protezione come un concetto molto individuale ovviamente e relativo, e ognuno, come dire, se lo studia anche un po' in casa questa protezione. Giancarlo da Cuneo, lei per esempio vorrebbe intervenire sul mutuo, se non ho capito male. Buongiorno. Vi ringrazio per tutte le informazioni che ci date, e volevo dire questo: facendo un'ipotesi di un mutuo intorno ai 140.000 euro come abbiamo noi e uno spread dell'1,2 che ci costa quindi una certa cifra, e avendo a disposizione, che ne so, 40.000 euro da investire, potrebbe essere considerata una forma di investimento andare a pagarsi una parte del mutuo e così, diciamo, risparmiare gli interessi che dovremmo poi pagare alla banca? Giancarlo, allora qua io tra l'altro ho di fronte a me due papà di famiglia, per cui chiaramente possono anche calarsi in questa veste oltre che fare il loro mestiere. Io le dico come la penso. Io, Deborah Rosciani, io lo farei, perché se io avessi l'opportunità il mio mutuo lo cancellerei domani mattina. Però non so se Meo e Federici sono d'accordo. Meo, lei come vede questa ricetta per proteggere anche le proprie risorse familiari? Effettivamente il mutuo ha un impatto, rischia di avere un impatto notevole. È sempre una zavorra, parliamoci chiaro. Assolutamente sì. Peraltro se vengono fatti dei mutui a tassi variabili, adesso la gente non può che essere molto, molto contenta, esatto. Si hanno dei tassi Euribor che sono bassissimi, e quindi si hanno delle rate che sono cambiate prepotentemente solo nell'arco di 12 mesi. È sempre una scelta molto, molto difficile, molto personale, perché poi comporta anche il tipo di propensione al rischio che si può avere. Se c'è la possibilità di abbattere comunque un debito, io suggerirei di farlo immediatamente. A livello finanziario comunque è sempre molto complicato andarsi a indebitare su alcune forme e poi cercare effettivamente delle opportunità di rendimento da altre parti, anche perché certo dipende anche da quanto è lungo questo mutuo, però insomma 40.000 euro in meno lo portiamo a 100.000, se dovesse riprendere a correre l'inflazione i tassi risalgono, ovviamente non è una cosa che succederà nel giro di un anno e mezzo, e però poi la rata torna a lievitare, se abbattiamo il capitale, Federici, la rata magari in futuro aumenta. Rispondo da possessore di mutuo in questo senso. Da persona di Fidelity. Ma sicuramente ci sono almeno due regole di buon senso. La prima è che in fasi come queste ci sono tanti possessori di mutuo che stanno affrontando la discussione con la propria banca per valutare la possibilità di rinegoziare lo spread soprattutto. Quindi questo è un vantaggio per il singolo, laddove il singolo riesca a ottenere condizioni migliori, perché è evidente che in fasi come queste c'è possibilità di provare a farlo. Il secondo è un tema di stato attuale dei tassi. I tassi adesso, come si diceva correttamente, sono piuttosto bassi, quindi è vero che c'è possibilità di fare altro, però non è neanche il periodo peggiore, tutto sommato oggi il costo di avere un mutuo è più basso di quello che ci potrebbe essere nel tempo. Qui bisogna fare una riflessione sulle prospettive dei tassi. I tassi a nostro avviso non rimarranno, cioè non si rialzeranno in maniera significativa per un bel po' di tempo, perché mi sembra che stiamo vedendo un'economia che è tutt'altro che in fase di crescita smagliante, quindi è probabile che i tassi resteranno bassi, e quindi uno può ragionevolmente mettere in conto di pagare più o meno quello che paga per un po', e allora lì il tema è: riesco ad impiegarli in una maniera migliore quei 40.000? Allora, se uno è convinto di poterlo fare e magari si è guardato intorno, ha chiesto al proprio consulente, quindi ha ipotizzato un investimento che stia un tempo lungo a sufficienza per poter poi maturare i frutti di cui stiamo parlando, beh, magari allora lo può fare, altrimenti potrebbe rimanere nel suo mutuo per un po' e poi fare questa manovra quando i tassi si alzeranno e quindi il costo per diciamo il singolo può diventare più elevato. Solo un'attenzione, perché non è così semplice poi da fare, ci serve del tempo, discutere, infatti, rinegoziare. Insomma, bisogna mettersi un attimo a mente fredda a ragionare su quello che è meglio fare. Però insomma, noi un paio di ricettine le abbiamo date a Romeo, speriamo che siano utili queste, non a Romeo, non mi ricordo come si chiamava l'ascolta, Giancarlo, Romeo ce l'abbiamo in attesa. Allora, che fine hanno fatto questi cassettisti? Esistono ancora sul mercato, insomma un settore a cui voi guardate con interesse? Beh, questa è una bella domanda, perché il cassettista sembra un po' passato, come dire, a tempi storici, no? Quando si comprava il titolo generale, lo si teneva per 10 anni, 15 anni. O l'Eni o l'obbligazione emessa dalla società. In realtà credo che sia un po' una visione anacronistica, perché i mercati stanno dimostrando, e lo stanno dimostrando probabilmente già dall'inizio del 2000, che sono veramente molto incerti. E nella loro incertezza presentano delle forti inefficienze che poi vanno lette tanto in termini di opportunità di rendimento quanto in termini di protezione del capitale, e quindi anche scivoloni che si possono presentare. Quindi pragmaticamente, quando un investitore compra un titolo di Stato di qualunque paese, poi tenerlo per 10 anni effettivamente corre un rischio serio, che è quello di perdere le opportunità che si possono presentare in altre aree geografiche. Ritorno al tema dei paesi emergenti. Noi guardiamo con un grande interesse paesi come l'Ucraina, per esempio, il Brasile o l'America Latina in generale. O anche il Messico, per esempio. Ecco, il Messico è un paese che sta performando molto bene, ha una bilancia import-export che sta fortemente migliorando. Però chi si aspettava di questo incidente petrolifero, che sta effettivamente mettendo un po' in ginocchio la stessa economia? Per non parlare dell'influenza A, per esempio, di un anno e mezzo fa, che è stata originata da lì, che pure un qualche disastro l'ha combinato. Diciamo che è un'area un po' sfortunata da questo punto di vista. Quindi fare il cassettista significa effettivamente perdere molte opportunità, e significa di fatto non lasciare a un gestore professionale cogliere delle opportunità che si possono presentare nelle inefficienze di mercato. Quindi questa è una visione che noi riteniamo essere un pochino storica e da lasciar perdere da questo punto di vista. Allora, prima abbiamo toccato, adesso Federici ci ritorno con il tema dell'inflazione, legandolo al mutuo, quindi che è al mutuo a tasso variabile. Attenzione che in prospettiva i tassi torneranno ad aumentare, non è una prospettiva dietro l'angolo, perché naturalmente questa economia ancora in affanno ha bisogno di tassi favorevoli, e però bisogna anche guardare al tema inflazione in un'ottica di periodo un po' più lunga, perché magari ci sarà un momento in cui magari qualche fiammata tornerà ad esserci sui prezzi al consumo, e di conseguenza sarà un aspetto dal quale difendersi, quindi anche lì ritorna la protezione. Però prima di questo le faccio sentire un'altra domanda di un ascoltatore, che è Umberto da Roma, che saluto. Umberto, buongiorno. Buongiorno. Grande cavallo di battaglia di molti risparmiatori adesso, le obbligazioni tedesche. Esatto. Senta, allora io volevo, diciamo, mentre parlavano i suoi ospiti mi è venuta anche in mente un'altra cosa da chiedere. Comunque faccio il primo intervento rapidissimo, allora, se ce la fa, grazie. Sì. Allora, io fondamentalmente ho ricevuto un'eredità di 300.000 euro. Questa praticamente non, il problema è stato sempre molto difficile, diciamo, la gestione di questi soldi. Immagino. Mi sono messo in asset liquidissimi, praticamente inizialmente ho messo metà in BTP e metà in Bund tedeschi. Successivamente, diciamo 2-3 settimane fa, c'è stata prima del varo dei 750 miliardi che venivano dati come garanzia, il BTP decennale ha perso il 3,5%, il 2,5% in un giorno. Quindi una cosa praticamente, insomma, mi sono trovato a perdere 4-5 mila euro su asset, e quindi niente, poi c'è stato il varo del piano di 750 miliardi, è ritornato a 105,50 alla scadenza 2019, io l'ho venduto e mi sono messo tutto sull'obbligazionario tedesco, 3,25% di rendimento, che ora non è più tale perché essendo salito il valore, quindi ora dovrebbe essere 2,70, qualcosa del genere. Ora, la domanda che io mi faccio sono su questo asset super liquido, però fondamentalmente questi titoli io li detengo all'interno di una banca italiana che non ha la tripla A come lo Stato sovrano, che quindi è la Germania, e volevo sapere se nella follia generale di cui stiamo parlando, perché oramai qui si parla di cose. Ah, no, ma guardi, le domande sono le più disparate e hanno tutte quante ragione, Umberto, di, più di che essere altro, poste. No, nel senso che non si è mai parlato, diciamo, di problemi di banche, o per meglio, ne stavamo parlando un anno fa. Quantomeno quindi... per quelle italiane, insomma, tanti rischi sono scongiurati. Umberto, mi rimane un minuto e mezzo di trasmissione. Io giro subito la domanda ai nostri interlocutori. Tra l'altro, qua c'è volata via veramente questa mattina, li devo richiamare a più presto. Federici, vuole rispondere lei? Ma io chiaramente, come dire, non mi posso pronunciare sulla singola banca, ovviamente. Quello che va detto è che più in generale l'economia è fortemente intercorrelata, quindi ho seri dubbi che ci siano a breve problemi del genere, in particolare in Italia. Detto questo, però, riporto a quello che è il concetto di fondo comune di investimento. Fondo comune di investimento vuol dire fondo, cioè qualcosa che è un patrimonio separato dall'entità che lo tiene in deposito, in questo senso, per esempio la banca. Quindi, ipotesi del tutto teorica, se una banca fallisse, il patrimonio del soggetto investito in un fondo non sarebbe toccato, perché è semplicemente il custode, non è il proprietario, né potrebbe averli investiti diversamente. Comune vuol dire, sicuramente il signore che stiamo sentendo è fortunato per 300.000 euro, ma potrebbe averne anche molti meno da investire, oppure, volendo diversificare questa somma, potrebbe dividerla tra più cose. L'importante è poter accedere a forme anche molto diverse, con tutto sommato importi molto molto limitati. E infatti, certo che però il caso di Umberto richiederebbe un'analisi più approfondita, perché comunque lui ha fatto una scelta molto drastica di mettere tutte le uova in un paniere, come si dice molto spesso. Questo è un errore che non deve essere commesso. Detto questo, magari Umberto, se ci vuole scrivere, io girerò il suo caso ai nostri due interlocutori di questa mattina e vediamo appunto che tipo di ricette possono. 10 secondi, Meo. 10 secondi, una rassicurazione al signor Umberto: se sono depositati presso una banca ma investiti in altri titoli, beh, lì bisogna guardare il rischio emittente, dell'emittente. La Germania, direi, adesso tranquillo. Direi che non è proprio il caso, se i suoi titoli di Stato adesso sono un po' meno redditizi, ma in ogni caso la Germania non la vedo pronta a fallire assolutamente. Ragazzi, grazie a tutti per essere intervenuti questa mattina. C'erano molti ascoltatori che volevano chiedere le sicurezze dei conti di deposito. Prendetevi il dossier di oggi, così come quelli dei pronti controtermine. Lina e Romeo, non riesco a farvi ad intervenire. Noi ci sentiamo domani.